Secondo giorno di occupazione qui al BU a Bologna in via Serlio di fronte al DLF. Ieri sera in tanti e in tante siamo entrati ed entrate in questo posto con rivendicazioni chiare, pretendendo un tavolo di trattative con un referente politico per questo spazio, per questo studentato di lusso, e un referente politico per l'università, con dei punti rispetto al tema dell'emergenza abitativa a Bologna, dato che se ne parla tanto, prendere dei provvedimenti seri a partire da qui, quindi adibire parte di questo posto all'emergenza abitativa per studenti e studentesse, ad esempio idonee non assegnatarie per gli alloggi di ergo, per la mancanza degli immobili, e dall'altra parte diminuire totalmente il prezzo complessivo di questo edificio, perché ad oggi la stanza meno cara in questo studentato costa 800 euro. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta e l'atteggiamento che abbiamo visto trasparire da chi si è interfacciato con noi è stato quello di estremo lassismo, quindi tanto voi da qui prima o poi ve ne andate. Noi oggi lanciamo una sfida alla città che potremmo chiamare 15 piani in 15 giorni. Noi a partire da oggi, un piano al giorno, apriremo le stanze di questo edificio e le dedicheremo a chiunque ne abbia bisogno. Ogni giorno, a partire da oggi, quindi col pian terreno, noi faremo in modo che chiunque abbia bisogno di una stanza possa venire qui e prendersela. Un piano al giorno, finché le nostre rivendicazioni non verranno trattate col giusto rispetto, col giusto valore politico. È da ieri che appunto viene minimizzata, come dire, questa occupazione qui da chi attraversa in questo momento lo spazio, insomma, tra ingegneri eccetera, come dire, costringendoci in qualche modo, volendoci anzi costringere, che a pensare che non è uno studentato di lusso il problema di questa città. Quello che noi pensiamo è che questi studentati di lusso qui, che sono nati come funghi, come vediamo negli ultimi anni in maniera consistente nella nostra città, sono non soltanto poi appunto reale concretizzazione di quello che significa chi può vivere e attraversare una città e chi invece ne è tagliato fuori, perché stanze che costano almeno 800 euro non è un qualcosa che tutte e tutti si possono permettere, simboleggiano anche proprio il mutamento di una città in questo momento, che quindi si fa sempre meno capace di essere vissuta dalle persone, dalle studentesse, dagli studenti, da giovani precari e precarie. Una città che viene svenduta appunto a multinazionali come questa, CRM, che vengono da altri paesi, prendono pezzi di città e la modellano a proprio piacimento, come dire, concretizzando quello che è la differenza tra chi può vivere e chi invece non può vivere a Bologna. Poi appunto le rivendicazioni sono chiare, non vogliamo andare via da questo spazio, nessuno fino ad ora si è fatto vivo, riempiremo questi spazi qua di iniziative, dal pranzo sociale a punte materiali verso il 22 ottobre, costruzione quindi di cartelli, striscioni eccetera, perché vogliamo portare questa lotta qui all'insorgenza del 22 ottobre. Oggi quindi noi non abbiamo proceduto con un blocco d'ufficio rispetto ai lavori, che vedremo poi assieme dentro, che sono in atto e sono massicci. I lavori continuano, e questo perché noi crediamo che appunto questo studentato, questo posto, questo plesso vada portato a termine. Se fino a quel momento non arriveranno risposte rispetto alle emergenze abitative, noi avremo il nostro posto dove stare, il primo di tanti che siamo pronti a prenderci senza chiedere il permesso. Quindi oggi i lavori stanno continuando, perché appunto è nel nostro interesse il fatto che le stanze siano finite, che il plesso diventi tutto agibile, e se non avremo le garanzie politiche che stiamo chiedendo, noi di qui non ce ne andremo, e lo useremo come un hub logistico per il 22 verso la convergenza e l'insorgenza del 22 ottobre con il corteo regionale che si terrà questo sabato a Bologna, e successivamente come hub di costruzione politica di una campagna sull'abitare che non si fermerà qui ma andrà a toccare altri stabili pubblici, privati, perché è un problema che è sistemico oggi. Prendo spunto su una cosa che dicevi prima, insomma, dicevi ci sono diversi ormai studentati di lusso, abbiamo visto student hotel, social hub, pensate che in corso in città ci sia una sorta di sostituzione di classe? Significa voler escludere tante e tanti dall'attraversamento di questa città, nel senso è la direzione in cui in questo momento mi sembra sia palese vada lo sviluppo urbano di Bologna, che quindi appunto sì, crea un target di persone che possono avere accesso non senza sacrifici, perché poi tante persone che abbiamo conosciuto che vivono negli studentati di lusso, incontro cui non ci siamo mai messi in opposizione a loro, perché se noi stiamo chiedendo che queste stanze costino di meno è perché vogliamo che costino di meno per chi vivrà, ha già prenotato delle stanze e vuole vivere qui, e gente che dopo 2 anni di pandemia in cui magari si è ritrovato a vivere in delle topaie ha deciso di svenarsi e pagare 680 euro una doppia, perché a Camplus abbiamo incontrato della gente che ci diceva che paga 680 euro per stare in doppia e che però lo fa perché non c'è un'altra soluzione in questa città, e quindi piuttosto che rimanere a Palermo, a Bari o dalle città in cui si viene, ma spinte dal desiderio che li spinge a venire, a mettere radici nella città che hanno scelto per il loro percorso di studio, ma in generale per la loro vita, piuttosto accettano questo compromesso, ma non tutti possono farlo, perché è un compromesso che costa tanto e che quindi crea un target di persone che può attraversare questa città. Chi invece non può farlo ne rimane fuori. Tanti e tanti abbiamo conosciuto in queste settimane di campagna sull'abitare, con assemblee eccetera, che ci hanno detto: ci rivediamo quando forse avrò la possibilità di tornare, perché sono dovute andare via, oltre che prendere casa a Imola, casa a Ferrara, e farsi ore di treno per poter stare a delle lezioni da cui vengono buttati fuori, perché non ci sono manco le aule con posti sufficienti per accogliere tutta la comunità studentesca dell'Università di Bologna. Per noi qualsiasi tipo di, come dire, toppa, che noi sembra oggi quella lì una toppa a un problema che è enorme, per carità, non stiamo qui a criticarla. Io mi chiedo cosa significhi il 30% di quello studentato adibito a chi ha enormi esigenze economiche, mi chiedo il restante 70% invece a chi verrà adibito. Cioè, oggi mi sembra che qui si stia raccontando una favola e si stia agendo nella maniera opposta. Si parla di emergenza abitativa come se fosse un qualcosa che ci stiamo inventando in questo periodo, ma è una cosa sistemica che va avanti da anni e che oggi sta peggiorando col caro bollette, con tutto ciò che guerra, pandemia, crisi economica stanno andando a determinare. Ma allo stesso tempo facciamo finta che 200 posti in più facciano la differenza. Qua c'è da fare un lavoro radicale, c'è da assumersi una responsabilità politica nel mettersi come garante per gli affitti concordati, per studenti e studentesse, per fare in modo che non esistano posti che determinano un'altezza di prezzo come questi qua, quindi 800 euro, che poi dettano la linea del mercato. E quindi noi troviamo che il prezzo di questo posto diventerà standard di qua ai prossimi anni se questo processo non si ferma. Noi stiamo lanciando una sfida oggi a chi è disposto o non è disposto a coglierla, e badate bene, la differenza sta non nelle chiacchiere ma nei fatti, perché abbiamo delle condizioni concrete per uscire di qui, un tavolo di trattativa, lo ripetiamo, da cui deve uscire il fatto che parte degli alloggi di questo studentato di lusso vengano adibiti all'emergenza abitativa, a chi non può permettersi una casa a Bologna, e poi i prezzi totali di questo palazzo devono essere resi vivibili. 800 euro in questo periodo per una stanza è uno sputo in faccia alla miseria, e noi crediamo che non ci sia una responsabilizzazione del privato e basta. Il privato è, come dire, in condizioni di agire come meglio crede, perché non esiste una regolamentazione pubblica che metta dei freni a multinazionali come BU, come The Student Hotel, come Camplus. Quindi oggi è un lavoro politico che noi chiediamo, e abbiamo condizioni politiche per uscire da questo posto, altrimenti ogni stabile sarà una barricata, ogni studentato privato sarà una nostra occupazione, ogni plesso pubblico diventerà una casa per studenti e studentesse in emergenza abitativa.